scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola per un nuovo appuntamento con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti dello spettacolo. Questa voce in scena è quella di una leggenda della musica leggera italiana. È nato a Carpi nel 1946. Nel 1963 fonda lo storico gruppo dei Nomadi, nato dal suo gruppo precedente, quello dei Monelli, assieme ad Augusto Daolio. Diventa il tastierista del gruppo fino ai giorni nostri. È l'unico membro della band rimasto dei fondatori ed è considerato dai fan il leader indiscusso del gruppo. A presentare il nuovo CD dei suoi Nomadi, Lascia il segno, è Beppe Carletti. Questo qua è un album che noi abbiamo, che sentiamo moltissimo, un album che è tutto nostro a 360 gradi. Dico tutto nostro perché l'abbiamo inciso da noi, cioè non è che abbiamo chiamato altri musicisti nell'altro CD, però tecnicamente avevamo sì il fonico, però il fonico è quello che ci segue nei concerti e ci siamo avvalsi della sua collaborazione, l'abbiamo missato noi e niente, lo sentiamo in modo particolare, ma anche non è che questa volta siamo stati più bravi, ma sono un insieme di tante cose, no? Le canzoni che ti trovi per mano, la voglia di fare qualcosa dell'attuale, del presente, no? Nei testi così di cantare, di dire cose che si stanno vivendo in questo momento, ma di dirle alla Nomade senza esagerare troppo. Ti dirò un piccolo aneddoto: abbiamo fatto un CD anni fa di cantautori italiani, abbiamo messo una canzone di Luciano Ligabue, allora c'è una parola che dice merda e noi l'abbiamo tolta, però gli ho chiesto il permesso, Il conto della storia arriva al tavolo. Quando ti entra nella pancia, sei messo alla prova, sei pronto a difendere la tua libertà, a parlare della tua verità. C'è una strada da prendere, apri gli occhi e prova a scegliere. E qualcuno potrebbe immaginare, dopo tanti anni di carriera, si potrebbe aver voglia di ripiegare su altre riflessioni, invece voi continuate a guardare il mondo. Ma a noi la nostra identità è questa, cioè anche se ci sono intervenuti tanti ragazzi insieme a me, no? Perché sono stati cambiamenti mai voluti, ma comunque voglio dire, però tutti hanno la stessa idea Nomade, no? Cioè non è che, anche perché sappiamo benissimo che veniamo con i Nomadi, quindi non è che uno può arrivare dentro e pensare di stravolgere l'essere dei Nomadi. Questo non succede, non è mai successo, e la forza nostra è anche questa, cioè il fatto di durare così tanto e che tutti i ragazzi che sono venuti, che si sono succeduti, chiamiamolo così, hanno preso coscienza bene come la storia nostra, e questo diventa tutto più facile per me, che ci sono da sempre, ecco. Ed è una grande soddisfazione, perché vedere dei ragazzi che potrebbero essere i miei figli, portare avanti insieme a me una storia così, mi sembra una cosa positiva, molto. Respirando una vita che non va, stai cercando aria nuova e libertà. Guardi il mondo senza freni e tu vai contro. senti la pioggia come cade su di te, senti il freddo come scalda i tuoi piedi, nella strada c'è, nel cammino c'è. Ragazzi nella band e tanti ragazzi anche tra i vostri fan, che sono una razza a parte rispetto a tutte le altre fan base, forse non solo italiana, una razza a parte. Lo so, in effetti dico sempre che noi abbiamo un pubblico che è solo nostro. E ci sono i ragazzi, ci sono le persone della mia generazione, vengono i bambini accompagnati dai genitori, chiaramente, perché poi sono loro che vogliono venire, poi i bambini che amano delle canzoni dei Nomadi, in particolare chiaramente Vagabondo, ma va bene, non è che mi dispiace. Il nostro è un pubblico trasversale, che non ha età, è un pubblico che è solo nostro, come hai detto te, che non può essere di nessun altro. Perché io credo che l'essere nomadi comunque non è recepito da tutti, perché molti ci considerano superati, vecchi, così, senza casomai venirti a sentire, senza il target, non target, queste balle qua, ste menate, che purtroppo sono stanco di sentirle, perché è da quando sono nato che sento queste menate sui nomadi così, perché c'è sempre stato un po' di... con i nomadi, sai, col fatto, io te l'ho indietro nella storia, molti dicono ancora i nomadi di sinistra, ci sono queste pregiudiziali, no? Cose strane che, cioè, a me mi viene da ridere quando uno ancora, ma voi siete di sinistra, ma ancora questa menata, c'è di tutto, di destra, di sinistra, c'è chi crede in certi ideali, c'è chi crede in certi discorsi, questo è il nostro pubblico. Nel mondo d'oggi avere un certo tipo di pubblico che segue una certa tematica non è facile, e questo pubblico quando ce l'hai non ti molla più, anzi tende a portare ancora altra gente, perché io ho 50 anni e passa che suono, tutte le sere c'è uno che mi dice ho portato un amico nuovo, quindi noi invece andiamo avanti imperterriti col nostro essere, col nostro pubblico, che è un elemento fondamentale dei nomadi, potremmo dire il settimo elemento, potremmo dire, no? Questo pubblico qua ce lo guadagniamo tutti i giorni, giorno dopo giorno. La riconoscerai se parla col destino di animante, magari apprezzerai l'artista ignoto, forse un po' saccente, la sua creatività tra le sue dita scorre impaziente, di notte scriverà, ma di giorno riderà, giullare a volte cinico ed assente, perché il mestiere suo è regalarti un'ora di allegrezza, ma quello che non sai, che può vedere oltre l'orizzonte, ti dico che è così. Sì, tu amala com'è. Pronti via, si apre il sipario e inizia una storia fantasia. C'è invece chi pensa che si fa sul... Per voi l'importante è il ruolo etico dell'artista, perché il messaggio che dovete, che sentite la responsabilità di dare al vostro pubblico è importante. Fate una riflessione anche in questo album. Sì, sì, ce ne sono tanti, sì. Credo che uno che lo sente, uno legge i testi, sono testi semplici, ma nello stesso tempo arrivano dove devono arrivare, dove noi vogliamo che, lo speriamo più che altro, che arrivino nel cuore della gente, no? Perché la canzone è successo se arriva nel cuore della gente. Qua ci sono tematiche, come ho detto prima, e siccome noi le guardiamo, le tematiche, abbiamo guardato parola per parola. Ci sono un paio, una canzone d'amore, due, con delle parole... del passato, no? Ricercate volutamente, capito? Per dare, per far vedere,